giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Estate di transizione per il Covid anche in Friuli Venezia Giulia, a dirlo il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, l'udinese Brusaferro, presente a Ronchi in occasione del Festival del Giornalismo. Determinante per il contenimento del virus lo scudo creato dai vaccini. Raddoppiano i nuovi casi di contagi in una settimana in Friuli Venezia Giulia. La base di questa nuova esplosione di positività, la diffusione di sottovarianti del coronavirus. Un operaio di 30 anni di cittadinanza straniera è rimasto folgorato mentre stava lavorando in una piattaforma aerea alla Fantone di Osoppo. È grave ma non in pericolo di vita. Alla vigilia della giornata mondiale del rifugiato, da Cividale arrivano le storie di chi è stato costretto a fuggire lasciando tutto alle spalle. Pubblico delle grandi occasioni, ieri sera a Lignano Sabbiadoro per la cerimonia di premiazione della 38esima edizione del premio dedicato a Ernest Hemingway. Mara Navaria conquista la medaglia di bronzo nella prova individuale di spada ai campionati europei in Turchia. Basket, questa sera la Gesteco Cividale costretta a vincere a Vigevano per mantenere il sogno della promozione in A2. Le 8:31 in questo istante, questi titoli, buongiorno e buona domenica da Giorgio Beaz e Maria Spezia che condurranno questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia del 19 giugno, ricorrenza del Corpus Domini. In apertura, come sempre, uno sguardo alle condizioni meteo e alle previsioni di oggi. Il cielo è da sereno a variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 7. A Trieste ci sono 23 gradi, il mare calmo con temperatura di 23 gradi e mezzo, a Udine 21 gradi e 5 decimi, a Gorizia 20 gradi e mezzo, a Pordenone 22 gradi e 5 decimi. 19 gradi e 5 decimi a Tolmezzo, 16 gradi e mezzo a Forni di Sopra, 15 a Piancavallo, 14 a Tarvisio, 13 a Sappada. Sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 13 gradi e mezzo, sulla costa Lignano 24 gradi e mezzo, a Grado 22 e 5 decimi, la temperatura del mare in queste due località è di 25 gradi e mezzo. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo sereno, poco nuvoloso con caldo estivo, specie in pianure di pomeriggio. Sulla costa si avvertirà l'effetto mitigatore della brezza, zero termico a 4.800 metri di quota. Per domani cielo sereno, poco nuvoloso con caldo estivo, specie di pomeriggio e in pianura, venti a regime di brezza. Da pomeriggio variabilità sulla zona montana, possibili isolati temporali, specie sulla fascia alpina. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, l'udinese Silvio Brusaferro, intervenuto a Ronchi dei Legionari ieri per il Festival del Giornalismo, smorzando l'allarme in merito al recente aumento dei contagi da coronavirus registrato anche in Friuli Venezia Giulia. I ricoveri negli ospedali rimangono infatti sotto controllo, mentre a proteggere contro i casi gravi, dice Brusaferro, c'è l'alta percentuale di vaccinati. Anche il Festival del Giornalismo viene coinvolto nello spinoso dibattito sulla risalita dei contagi da coronavirus, ma nell'incontro a lui dedicato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e portavoce del Comitato Tecnico Scientifico, Silvio Brusaferro, spegne gli allarmismi ricordando che l'alta percentuale dei vaccinati, superiore all'84%, costituisce una solida barriera per affrontare le mutazioni del virus. Oggi noi assistiamo a uno scenario ed è la circolazione delle sottovarianti Omicron che sono altamente trasmissibili. Il numero di persone che contrae l'infezione che necessita di cure o di ricovero è limitato. Sappiamo però che queste varianti possono in qualche modo anche reinfettare. I sistemi di monitoraggio e di controllo è un elemento estremamente importante che ci consente di adottare i provvedimenti di volta in volta più appropriati. Alla domanda su che cosa possiamo attenderci nel prossimo autunno, però il professor Brusaferro rimane molto guardingo. Noi ci stiamo preparando in questo momento ad affrontare l'estate, si stanno mettendo a punto nuovi strumenti, tra cui anche nuovi vaccini adattati. L'autunno nessuno può prevedere esattamente la situazione, però quello che possiamo dire è che i nostri sistemi sono continuamente attivi per mettere a punto sempre nuovi strumenti. Ronchi dei Legionari, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. I nuovi casi sono 904, quasi il doppio rispetto a sabato scorso. Sono stati analizzati in tutto 5.068 tamponi. Il tasso di positività al coronavirus è del 17,84%, ancora in crescita. Il bollettino della regione registra poi un nuovo decesso avvenuto a Udine. Una persona in più sia in terapia intensiva per un totale di 4, sia nei reparti ordinari dove ci sono 85 pazienti. Alla base di questa nuova esplosione di positività c'è la diffusione della sottovariante del virus. La cronaca: Paolo Castellani, l'uomo che ha confessato l'uccisione della moglie Elisabetta Molaro con decine di coltellate la notte tra martedì 14 e mercoledì 15 giugno nell'abitazione in cui abitavano a Codroipo, resterà in carcere. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Udine, Maria Rosa Persico, sciogliendo ieri le riserve sull'udienza di convalida. Ancora cronaca: un operaio di 30 anni di cittadinanza straniera è rimasto folgorato mentre stava lavorando in una piattaforma aerea alla Fantoni di Osoppo. Subito soccorso dai colleghi e dal personale sanitario, l'uomo è stato trasferito d'urgenza in ospedale in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione, l'uomo è stato raggiunto da un cavo che doveva essere collegato ma che ha toccato la linea elettrica di media tensione. Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato ieri pomeriggio, per caso ancora da chiarire, a Verzegnis, in un'abitazione di via Pordenone. Le fiamme hanno interessato alcuni garage in cui erano riposte diverse bombole di gas, oltre a un'autovettura. L'immediato intervento dei vigili del fuoco di Udine ha consentito di mettere in sicurezza l'area. Non ci sono stati feriti. Si celebra oggi la festività del Corpus Domini, che è la festa del Corpo del Signore, ovvero l'Eucarestia, dedicata alla riflessione su amore e servizio. Per l'occasione a Trieste è prevista la tradizionale processione guidata dall'arcivescovo Giampaolo Crepaldi, con partenza alle 18 dalla chiesa di San Giacomo Apostolo, con arrivo in piazza della Cattedrale, dove si terrà l'omelia e verrà impartita la benedizione. In programma a Gorizia, la Santa Messa presieduta dall'arcivescovo Carlo Roberto Maria Redaelli alle 19 in cattedrale, cui sono state invitate associazioni e categorie professionali che si sono messe al servizio della città per rivolgere loro un ringraziamento per il tempo, le competenze e le risorse condivise nelle situazioni di bisogno. Seguirà una processione con l'Eucaristia fino alla chiesa dei Cappuccini, dove ogni giorno viene servito il pranzo per i più poveri. 40 uomini e donne fuggiti dai loro paesi a causa di guerre, discriminazione e persecuzione sono accolti da mesi grazie alla Caritas di Udine tra Cividale, Butrio e Rimanzacco. In vista della giornata mondiale del rifugiato, che si celebrerà domani, abbiamo sentito alcune delle loro storie. Per la giornata mondiale del rifugiato, la Caritas di Udine, che gestisce la rete nella zona del Natisone, una delle 8 in corso in Friuli Venezia Giulia, ha organizzato un incontro nella chiesa di San Francesco a Cividale. La referente per la Caritas, Francesca Peresson. È un progetto di seconda accoglienza, quindi che accoglie principalmente persone riconosciute, quindi sono tutte persone che si sono viste riconoscere un titolo di protezione, quindi il diritto di restare in Italia, e in questo periodo insieme al progetto cercano di costruire il proprio futuro qua in Italia. Il percorso dura 6 mesi con possibilità di proroga di altri 6. Per molti e molte ospiti è fondamentale l'anonimato. Questa signora proviene dall'Afghanistan, è fuggita un anno fa attraverso i corridoi umanitari organizzati dopo il ritiro delle forze occidentali e il ritorno al potere dei talebani. La situazione peggiora di giorno in giorno, ci spiega. Lei è del Bangladesh, ci racconta il suo percorso di inserimento lavorativo, ha seguito corsi per la cura degli anziani, di sartoria e di cucina, oltre che di lingua italiana. Ci sono persone provenienti da tutto il mondo, Ucraina, Pakistan, Iraq, Venezuela, Nigeria. Nessuno e nessuna di loro è al sicuro nel proprio paese. Cividale del Friuli, Ludovico Fontana, TGR Friuli Venezia Giulia. E alla vigilia della giornata mondiale del rifugiato, che sarà appunto domani, sono in programma già oggi alcune iniziative in regione. A Sacile, in Piazza del Popolo, alle 20.30, il concerto dell'Enfaber Band dal titolo Quello che non ho, con brani di Fabrizio De André, Francesco De Gregori e Ivano Fossati. Altro appuntamento in tema, la proiezione del film One Day, One Day, alla presenza del regista Olmo Parenti a Pordenone, allo spazio Wow di via Brusafiera, alle 21.30. Un corteo antimilitarista diretto alla base USAF di Aviano per protestare contro le guerre, il riarmo e gli eserciti, organizzato dal Coordinamento Regionale Libertario, si terrà con inizio alle 16.30 e ritrovo presso il parcheggio Ex Ovvio di Roveredo in Piano. Consegnata al Comune di Grado la bandiera blu, assegnata ogni anno dalla Fondazione per l'Educazione Ambientale a un totale di 210 località sul mare di tutta Italia, tra queste anche Lignano. Per l'Isola d'Oro si tratta del 34esimo riconoscimento ottenuto non solo per la qualità delle acque di balneazione, ma anche per l'efficienza della depurazione, della gestione dei rifiuti, aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche. In occasione delle giornate europee dell'archeologia, a cui lei accoglie oggi visitatori con aperture straordinarie delle aree archeologiche e dei cantieri di scavo, oltre ad eventi, visite guidate e musica. Pubblico delle grandi occasioni, ieri sera a Lignano Sabbiadoro per la cerimonia di premiazione della 38esima edizione del premio dedicato ad Ernest Hemingway. Conoscere, scoprire, ispirarsi, mettere a rischio le nostre convinzioni per capire meglio il nostro tempo. Tutto questo è il premio Hemingway, introdotto così dal presidente Alberto Garlini dal palco, sul quale sono poi saliti gli altri membri della giuria, Gian Mario Villalta e lo storico d'arte Italo Zannier. I protagonisti della serata sono stati però i premiati. Premio Hemingway per la letteratura, la scrittrice Margaret Mazzantini, il regista Pif Pierfrancesco Di Liberto, premio testimone del nostro tempo, poi il fotoartista Mario Peliti e la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo, protagonista nel pomeriggio di un appassionato incontro sul ruolo della scienza, sull'importanza del metodo scientifico come mezzo per produrre conoscenza e cambiamento. Inevitabile il tema della divulgazione e informazione scientifica, fondamentale nel periodo pandemico, quando la scienza è uscita dai laboratori ed è riuscita a raggiungere in pochissimo tempo risultati impensabili. Lignano Sabbiadoro, Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport, iniziando alla scherma. Mara Navarri ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova individuale di spada ai campionati europei in corso ad Antalya in Turchia. L'atleta friulana è stata sconfitta dall'altra azzurra, Rosella Fiammingo, per 7-6 nella semifinale, che valeva appunto l'accesso alla finale. Una gara rimasta in equilibrio fino all'ultima decisiva stoccata giunta all'ultimo secondo. Ai quarti Navarria si era imposta per 15-7 sulla Svizzera Brunner. E siamo al basket. Cividale oggi vivrà due momenti importanti, distinti, che la riguardano a livello agonistico. Al Palagesteco stasera alle 19 si giocherà la gara tra le nazionali femminili di Italia e Spagna per la conquista del prestigioso trofeo triangolare città di Cividale. Entrambe le formazioni sono reduci da un precedente successo contro la terza formazione in gara, la Slovenia, che è stata battuta ieri dagli iberici per 60-56. In Serie B1, gara da dentro o fuori per la Gesteco Cividale, costretta a vincere oggi sul parquet di Vigevano per continuare a sperare e pareggiare la serie di sfide contro i Lombardi, che sono in vantaggio per 2-1 e a cui basta un successo per conquistare la promozione in A2. Inizio gara alle 18. Basket femminile, il Futurosa Trieste ha conquistato la promozione nella serie A2 femminile battendo al Pala Trieste l'Albino con il punteggio di 80-34. Il risultato consacra così la stagione ottima delle triestine, che nel torneo di Serie B hanno perso quest'anno solo una volta in trasferta a Cagliari. Tennis, doppietta austriaca nella 20esima edizione della Tennis Europe Junior Tour, torneo internazionale Under 12 organizzato dal Tennis Club Triestino sui campi di Padriciano, intitolato alla memoria di Claudio Giorgi, cui hanno partecipato oltre 100 atleti di 11 paesi. Nella finale maschile, successo di Anton Kalig, che ha battuto il francese Crevoul per 6-4-6-2. In quella femminile, Anna Pirker ha vinto contro la connazionale Lea Heider-Maurer. Alle 8:43 minuti e 15 secondi cominciamo la rassegna stampa di questa domenica dal Piccolo Edizione di Trieste, che apre in prima pagina con il titolo «Nel golfo sfruttato cresce il pericolo per le specie tipiche triglia e nasello nella lista nera, sardoni dal peso ridotto, sgombri in calo, l'appello di OGS alla pesca e al consumo sostenibile». Di spalla la cronaca, i cantieri sono in calo, gli scooteristi però non trovano parcheggio in città. Minacce ai supermercati per estorcere denaro. Il triestino, accusato di aver spedito le mail minatorie con notizie di possibili avvelenamenti, respinge in un'intervista tutte le accuse. E poi la musica con l'estate rock a San Giusto, si arricchisce l'offerta a fine luglio, arriva a Trieste Edoardo Bennato. E poi un esempio di longevità agonistica, il manager Slokovic, campione regionale di equitazione a 73 anni, come la dinastia dei Dinzeo. L'apertura del Messaggero Veneto è per l'inchiesta sulla mobilità, necessario un anno per la consegna di un'auto a causa della mancanza di microchip, le vendite sono diminuite del 30%. Fotonotizia per il taglio della fornitura di gas russo dal Tarvisio. L'edizione di Udine ha poi un'inchiesta sulla convenienza del passaggio al fotovoltaico, che risulta antieconomico per gli edifici che hanno le sole parti comuni da illuminare, mentre le altre utenze sono autonome. Capocronaca interno, il piano di riqualificazione dell'area di San Domenico con la costruzione di 112 nuovi alloggi di edilizia convenzionata. Il Gazzettino apre sui posti a rischio a causa del rincaro gasolio che erode i guadagni di autotrasportatori, tassisti e agenti di commercio. L'edizione di Udine del Gazzettino informa sulla mancanza di 300 stagionali a Rauscedo per la raccolta delle barbatelle a causa scarsità di manodopera dall'est Europa. Altra notizia è il blocco voluto dal Presidente del Consiglio Draghi alla vendita della Faber Industrie di Cividale, attiva nella produzione di bombole a gas ad alta pressione, che stava per essere venduta a una società russa. Dal piccolo edizione di Gorizia e Monfalcone, la politica in primo piano in vista del ballottaggio a Gorizia Vasiolo, Devetag si va verso l'accordo, il commento di Ziberna che parla di inciuci e sceneggiate nella coalizione di centro-sinistra. Biblioteca di Gorizia, domani primo sciopero dei dipendenti in 200 anni di storia, prevista una manifestazione e 600 volantini. Monfalcone, città del carnevale anche senza carnevale. Dopo 2 anni di astinenza dalla tradizionale sfilata di carri e gruppi del martedì grasso, ieri sera in centro città, nel clou della 65esima festa del vino organizzata dalla Proloco, confluite migliaia di persone, gran parte delle quali rifocillate per bene negli stand allestiti per l'occasione. E a fondo pagina la grande festa per i 75 anni della Juventina al campo sportivo di Via del Carso a Sant'Andrea. Sulla prima pagina dell'edizione di Pordenone del Messaggero si legge il titolo del capocronaca interno sull'aumento dei ricoveri per Covid nell'ospedale cittadino. Dalle pagine interne le positività di studenti e commissari alla vigilia dell'insediamento commissione degli esami di maturità che iniziano mercoledì. Più avanti un'analisi sulla mancata fusione di Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto che era naufragata nel 2016. L'edizione di Pordenone del Gazzettino informa sulla situazione del progetto della Pontebana, con interventi come rotonde e passanti da Udine a Pordenone, che necessita di oltre 150 milioni di euro già richiesti dalla Regione a Roma, senza però finora alcun esito. Spazio Pa un'analisi sul 15% degli abbandoni allo studio registrati negli istituti professionali, dove gli studenti preferiscono un ingresso anticipato nel mondo del lavoro. Altro servizio, quello sul nuovo ospedale, a cui sono stati destinati 20 milioni in più per un nuovo padiglione destinato alle cure intermedie. Uno sguardo ad alcuni appuntamenti di oggi in regione, evento conclusivo del Festival Transfrontaliero Riflessi con la lettura dell'autore Gianni Montieri seguita dal concerto Sorsi d'Amicizia nella località slovena di Medana alle 12. A Pordenone la festa del Noncello si conclude con diverse iniziative, dalle visite turistiche dedicate alle opere del Pordenone dalle 15.30 fino all'esposizione di vespe storiche e moderne del Vespa Club Pordenone. Prima giornata per il laboratorio gratuito di movimento, canto e teatro da Bianco Latte, da oggi fino a venerdì 24 a Tor Viscosa al piazzale della Mensa dalle 16 alle 20.30. Per la musica il coro di voci bianche della Scala di Milano viene per la prima volta in Friuli Venezia Giulia, diretto dal maestro Bruno Casoni, accompagnato al pianoforte da Marco De Gaspari, eseguirà musiche di Fauré, Verdi, Rossini, Schubert e Mendelssohn ad Aquileia in Basilica alle 20.45. Diretta dal maestro Romolo Gessi con l'orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia, il concerto Hollywood Music eseguirà musiche da film e sarà in scena a Trieste, al magazzino 26 del Porto Vecchio alle 11. Il festival Risonanze prosegue con il programma ispirato alla foresta del duo Miola Schönberg, tenore e pianoforte, in Val Sizer alle 11. Gran finale alle 17 con la FVG Orchestra, ospite il pianista ucraino Alexei Botvinov per il concerto per pianoforte e orchestra numero 2 di Rachmaninov e sinfonia numero 4 di Schumann. Giornata conclusiva per la manifestazione del piano City Pordenone che tra i vari concerti cittadini propone quello di Stefano Andreatta con musiche di Rachmaninov e Bach in corte Policrete alle 17 e quello di Yazan Greselin con un tributo a Ciccorea in Palazzo Loredan Porcia alle 19. Evento finale, tributo a Ennio Morricone di Gilda Buttà e Cesare Picco in piazza 20 settembre alle 21. Il concerto Ongaku Musica dal Giappone, organizzato in occasione della mostra Nihon Fuzukoe alle Sita Palazzo Coronini Kronberg, è in programma Gorizia al Teatro Bratusch alle 20. Il cartellone del festival musicale Folkest prosegue con il Trinacria Trio e le sue interpretazioni di ritmi e canzoni di tradizione a Tramonti di Sopra alle 17. Per gli spettacoli Belloci in bicicletta, lo spettacolo che vedrà Andrea Appi e Ramiro Besa, ovvero il Papu, commentare le musiche legate al mondo dello sport eseguite dall'ensemble Gabriel Fauré Consort a Pordenone nell'arena di Lago Cervignano alle 19. Quarta tappa per il giro handbike, gara paraciclistica a tappe riservata ad atleti paralimpici che si svolge a Udine con partenza e arrivo in piazza 1 maggio alle 11. E poi per i programmi regionali alle 9.15 andrà in onda il filmato Trieste nel mio cuore, Lelio Luttazzi, Una vita tra le note, una lezione concerto dedicata alla vita musicale di Lelio Luttazzi. A seguire il documentario L'orologio di controllo, storia e tecnica, realizzato da Stefano Morandini con il contributo degli studenti di 2 classi quinte dell'Istituto Fermo Solari di Tolmezzo. E alle 8.50 minuti si chiude qui la prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Ora spazio alla rubrica Vita nei Campi, prossima edizione del GR alle 12.15. A tutti l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.